Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, una puntata ricca di ospiti e soprattutto parleremo di un tema che sta a cuore a noi donne. Partiamo da una parola, autostima. Spesso questa parola viene usata a sproposito. Noi oggi cercheremo tutti insieme, con l'aiuto di tanti ospiti che sono qua in studio con me, ma soprattutto col vostro aiuto da casa, a rendercela un pochino più familiare e la declineremo al femminile, perché siamo soprattutto noi donne, le ricerche lo dimostrano, che abbiamo problemi di autostima. Quindi faremo proprio oggi un viaggio la scoperta di strategie, consigli, segreti per proprio potenziare, a volte ricostruire, perché in alcuni momenti della vita proprio l'autostima si sbriciola, questa dimensione della nostra vita che aiuta a stare meglio sicuramente. Allora, io voglio subito presentarvi gli ospiti. Prima ringrazio Filippa Oreggi, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi che ci dà una grande mano in redazione. Qua in studio con me, proprio accanto Alessandra Faiella. Buongiorno a tutti. Alessandra, allora, autrice di Autostimami è un breve corso di ironia per acquistare sicurezza di sé e vivere meglio. Io devo dire che l'ho letto, è fresco di stampa, edito dal Sole 24 Ore, e mi sento già diversa. Meglio. Non quindi, ci credo, esagerato. Sì, non mi vedi? Sei come splendida, mi trovi? Sei sorridente, splendida. Sicura. Ho sempre la tremarella tutte le volte che si accende, no? Si va in diretta, c'è la tremarella. Ma oggi poi oggi devo dire che sono in ottima compagnia e abbiamo insieme a noi anche la dottoressa Paola Leonardi, che è sociologa, psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Quante buongiorno. Cose ha fatto lei per noi donne? Beh, intanto sono partita da me, quindi proprio per conoscere bene le donne uno deve partire da sé, e l'ho imparato negli anni 70, insomma, giusto per valorizzarle un po'. Ecco, lei tra l'altro l'abbiamo, è qui perché l'abbiamo catturata per diverse ragioni. Ha anche per il centro libri. Autostima Donne. Brava, che ho fondato. A Framura. Sì, prima era Milano, Piacenza, sì, adesso sono andata alle Cinque Terre, al mare, quindi un salto di qualità. Il mare aiuta. Il coraggio di essere noi stesse, un libro che consiglio, l'autostima al femminile e non solo, edito da Baldini e Castoldi. E poi devo dire che non poteva mancare quella che da alcuni è stato considerato proprio un caso, sta diventando un caso internazionale, e è qua con noi Lorella Zanardo, autrice, regista del documentario Il corpo delle donne, tra l'altro consulente e formatore delle tematiche di genere. Lorella, wow. Grazie. Wow. Grazie a voi, buongiorno. Abbiamo anche un uomo, abbiamo anche Alberto Pellai, che qua è in veste di ricercatore all'Università di Milano. Alberto si è occupato di numerosissime ricerche proprio sull'autostima degli adolescenti. Alberto. Ciao Nicoletta, dovrei dire e io fra di voi, perché sono l'unico uomo in mezzo a tutte queste meravigliose signore, ma credo che ho anch'io qualcosa da dire sull'autostima sia al femminile che al maschile. Ecco, parleremo soprattutto di autostima al femminile, anche con degli spazi di autostima al maschile, ma tu Alberto e i nostri amici da casa prestateci l'occhio maschile. Tante volte, non so se questo sia un bene o un male, la nostra autostima femminile si costruisce specchiandoci nell'occhio del compagno che abbiamo vicino, del padre che abbiamo avuto o abbiamo, dei colleghi, e quindi tante volte la nostra autostima, vedremo se questo è un nostro limite, la costruiamo anche grazie all'aiuto, oppure va in frantumi proprio per, no? E quindi Alberto, tu sei un po' sulle braci oggi. Invito subito i nostri amici e le nostre amiche da casa intervenire, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. Allora facciamo subito un giro di tavola, io vi ho presentato, ma ciascuno di voi dal suo osservatorio privilegiato avrà una domanda, uno stimolo, uno spunto su cui iniziare la nostra chiacchierata di oggi, che vuole però essere molto concreta. Allora io so che non basta sicuramente un'ora di trasmissione per rifarsi l'autostima, ma ecco, io vorrei che le parole ci aiutassero poi a dei comportamenti, a guardare la vita in un altro modo, a guardarci allo specchio in modo diverso. Allora Alessandra, tu che con il tuo libro ci hai insegnato e insegni un po' a sorridere di noi, dei nostri difetti. Sì, diciamo, io ho impostato il libro sull'autostima in modo un po' diverso da quello che può fare una psicologa, uno psicologo, e spesso nel libro rimarco: io non sono una psicologa, sono un'attrice comica, e ho, per fortuna, e ho cercato di utilizzare le tecniche, non solo le tecniche che ho acquisito in tutti questi anni, ma che ho anche applicato nei corsi, sia sul teatro comico, sia proprio sull'autostima, sia sul parlare in pubblico, perché sono partito un po' dal concreto, e cioè dall'idea che lavorare anche sul corpo, anche sulla voce, oltre che sul dentro, oltre che sull'introspezione alla psicologia, può essere un ottimo strumento. Io lo cito anche nel libro, ho avuto un'esperienza che è stata fondamentale in questa direzione, è stata quella con Attive Come Prima, con le donne che hanno subito l'intervento al seno. Io mi sono accorta che, iniziando così in modo anche quasi casuale a lavorare sull'ironia, sul corpo, sulla teatralità e sulla comicità, queste donne gradualmente, perché iniziavano con grossa timidezza e con grosse paure, ma gradualmente guardandosi, giocando quindi sulle tecniche umoristiche che si basano sostanzialmente sull'autosservazione, sull'osservazione degli altri e anche sulla presa in giro, tra virgolette, no? Sul giocare a guardare quali sono i nostri limiti, i nostri difetti e anche i difetti degli altri, delle proprie compagne, queste donne a poco hanno preso una sicurezza, una capacità di distacco anche dai propri problemi, e quindi hanno avuto un recupero veramente straordinario. Infatti questa esperienza è durata per anni e io, come dico nel libro, ho imparato anch'io molto da loro. Ecco, Alessandra, c'è una storia, c'è stato un momento una donna che ti ha fatto capire che la direzione che stavi prendendo era quella giusta? Sì, un episodio che mi è rimasto molto impresso è stato quello di una donna che, dopo un percorso abbastanza faticoso, era molto timida, non voleva mai partecipare agli esperimenti che facevamo, agli esercizi, alla fine del gruppo ha scritto una specie di monologo in cui raccontava di quando ha fatto il bagno in mare e la protesi si è staccata dal suo reggiseno, ha cominciato a galleggiare, e questo ha creato una situazione di ilarità, per cui lei ha raccontato questa cosa invece che con vergogna e con imbarazzo, divertendosi, raccontandolo come un episodio che aveva un risvolto anche umoristico. E questo, secondo me, è stato un po' l'episodio tipo che mi ha fatto pensare di essere sulla strada giusta. Insomma, questa capacità di distacco dai propri problemi per vedere le cose con occhio diverso, con ovviamente il tatto necessario, perché qui si parla di un grosso problema, di una tragedia. In realtà nella nostra vita quotidiana ci facciamo problemi enormi anche per cose molto più piccole. Ecco, dottoressa Leonardi, mi viene da dire Paola, posso chiamarla? Sì, Paola, sì, certo, perché mi dà, ecco, ci facciamo problemi enormi anche quando non ci sono. Su questo bisogna lavorare. Donne che hanno tutto, che dall'esterno sembrano assolutamente avere tutti gli ingredienti per avere successo, e poi le scopriamo fragilissime. Che cos'è che mette in crisi le donne? Beh, intanto la storia, cioè le donne non sono, noi donne non siamo state abituate al cosiddetto empowerment, a decidere per noi stesse, no? Quindi abbiamo sempre visto il nostro desiderio nell'occhio dell'altro, come dicevi tu prima. Quindi il fatto di non sentirci capaci di poter decidere, di poter scegliere, di autodeterminarci, insomma, l'autodeterminazione delle donne è arrivata negli anni 70 con il femminismo, col movimento delle donne. Praticamente cosa non è stato questo movimento? La ricerca del desiderio, cioè, perché noi direi che tutta la vita è un po' la ricerca del desiderio. Quando tu, Alessandra, parlavi adesso del gruppo, il gruppo è fondamentale per scoprire questa cosa, perché l'altra ti fa da specchio molto, certo, più facilmente che non in un, certo, rapporto individuale, anche con la psicoterapeuta, no? Quindi è più giocoso il gruppo, costa anche meno, e poi è più divertente, è più giocoso, appunto, e si fa più facilmente ironia e autoironia, che è fondamentale. Ho letto adesso il tuo libro in treno, molto simpatico, mi è piaciuto molto. Ci siamo quindi tutte preparate. Mi sono proprio ritrovata nel, diciamo, direi un po' più le stesse cose, magari con parole un po' diverse, ma lo stesso concetto. No, ecco, volevo solo dire che c'è proprio una diversità tra l'autostima maschile e femminile, perché se ne parla senza che noi ne abbiamo bisogno, come se loro non ne avessero. Gli uomini non avessero bisogno, loro ne hanno bisogno anche loro. Noi ne abbiamo bisogno in un altro modo, nel senso che noi riversiamo, diciamo, la nostra aggressività, se si può dire, tra virgolette, contro di noi, mentre gli uomini, quando sono poco stimati, la riversano sugli altri. Non è un caso questa violenza nei confronti delle donne, anche gli ammazzamenti, eccetera, e non solo. Certo. Altro, ma proprio la violenza avviene proprio con scarsa autostima. Ecco, c'è un modo diverso, proprio le differenze di genere, come anche ci dirà poi qui Lorella, cioè proprio le differenze sia nell'autostima, ma nelle modalità esistenziali, come nelle malattie, come nel modo di rapportarsi nelle relazioni. Diciamo, ecco, che loro sono più pericolosi per gli altri e noi siamo più pericolose per noi stesse. Alberto, sì. Entra in scena il ricercatore. Che cosa Paola ci ha suggerito, un occhio, no? Sull'autostima maschile e l'autostima femminile, si comportano in modo diverso. Naturalmente tutti ne abbiamo bisogno per relazionarci con noi stessi e con gli altri. Cosa ci aggiungi? Ma io inviterei proprio gli ascoltatori a pensare all'autostima come le fondamenta su cui costruiscono la casa della loro vita, e quindi le fondamenta con cui poi hanno la possibilità di sentirsi padroni della loro casa, oppure in affitto dentro una casa, capaci di fare della loro casa il loro nido, oppure sempre preoccupati che la casa sia perfetta per l'arrivo degli altri. Più noi ci sentiamo di abitare con competenza la nostra vita, il che significa avere una percezione chiara dei nostri punti di forza e dei nostri punti di debolezza, più il nostro modello di autostima si è messo a fuoco bene, perché noi abbiamo una piena comprensione in qualche modo di chi siamo noi, di chi sono gli altri in relazione con noi e di cosa possiamo fare noi in relazione con gli altri. Dovessi darvi un'idea di uno specchio metaforico su cui verificare come sta andando la vostra autostima, è che capacità avete, guardandovi nello specchio, di saper dire: lo so, dentro quello specchio non c'è un me stesso perfetto, ma c'è proprio la persona che sono e che in qualche modo sono voluto diventare. Se riuscite a dirvi questa cosa, probabilmente il vostro modello di autostima corrisponde a un percorso in cui siete riusciti a costruire e arredare la casa della vostra vita in una direzione che vi ha fatto bene. Più dentro lo specchio vedete qualcosa che siete costantemente preoccupati di dover cambiare, più per far contenti gli altri che voi stessi, più significa che la vostra autostima è eteroregolata, cioè è dentro al pensiero degli altri ma non al vostro, e più probabilmente voi stessi diventate il principale nemico di voi stessi. Lorella, c'è uno specchio che non è nato per essere specchio, ma che da cui noi prendiamo modelli. Tu ne parli nel tuo documentario, e che ascolteremo, anzi possiamo, Filippo, ascoltarne un breve estratto? Ho lavorato e sono sfinita. Non immaginavo così tanta fatica e così tanta noia. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini. Sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che rivelare. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne, che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? Lorella, ti passo la parola. Grazie. Dunque, questo incipit si commenta da solo. Questo incipit si commenta da solo. Riferendomi a quello che diceva prima Alberto, e su cui ero assolutamente d'accordo, il fatto è che questo meccanismo, giustissimo, a volte si inceppa perché abbiamo appunto la televisione che crea dei modelli. La televisione che crea dei modelli e che sono stati modelli incontrastati negli ultimi 25 anni, che cosa accade? Accade che noi donne, moltissime donne, si sentono inadeguate al modello che viene proposto giornalmente dalla televisione, che è un modello, come si vede nel documentario, di eternamente giovane, eternamente perfetta, eternamente liscia, e questo crea certamente insicurezza. Crea insicurezza anche perché dall'altra parte non abbiamo costruito alternative. Quello è il modello imperante. Ricordiamo che per l'80% delle persone che guardano la TV è l'unico mezzo di informazione, quindi non ha alternative. Quindi io dicevo ultimamente, in questo periodo di grandi scandali, di veline, schedine, escort, io dico sempre comunque dalla parte delle donne. Questa è la mia posizione, perché queste ragazze sono il prodotto di 25 anni di televisione in quel modo, dove, bisogna dirlo, noi donne abbiamo fatto poco. Dove noi, io, la mia generazione... Sì, noi, perché abbiamo più o meno tutti la stessa età, siamo state... Sì, vabbè, sì. Hanno più, hanno meno, ma... in qualche modo abbiamo lasciato che le cose andassero così, non ce ne siamo accorte, non abbiamo voluto. Adesso però è giusto che apriamo gli occhi e metabolizziamo questo. Io sono d'accordissimo con quello che dici, tanto è vero che io penso che io per prima, devo dire che questo documentario è nato dal desiderio di fare qualcosa, di dire bene, adesso le donne mature, le donne adulte, le donne che hanno un passato alle spalle, forse ora che veniamo allo scoperto e offriamo ai ragazzi un'alternativa a questa vergogna televisiva, che è, come dire, ugualmente ripartita tra i programmi commerciali della rete privata e anche delle reti, certo, nazionali. Io ho un esercizio che voglio farvi fare, perché in apertura abbiamo detto vogliamo ragionare a voce alta insieme a voi, ai nostri ascoltatori, agli ospiti, ma vogliamo anche concretamente darvi un po' delle strade. E Alessandra, tra l'altro, il libro di Alessandra, arrivano i messaggi, chiamano il centralino, è in libreria. In libreria, sì. È in libreria, è già in libreria. Sì, sì, sì. Non in edicola, perché dicono solo 24 ore, no. È in tutte le librerie, la signora l'ha trovato persino a Sarzana, no? Dove è? A Levanto. Quindi distribuzione magnifica, edito dal Sole 24 Ore, andate in edicola. E intanto però facciamo un piccolo esercizio, lo sentiamo così poi ci attiviamo. Prendete carta e penna o il computer e provate a scrivere un vostro ritratto usando un po' di umorismo e un pizzico di ironia. Potete anche aiutarvi fingendo di parlare di qualcun altro, come se descriveste un tipo buffo e imbranato che conoscete. Parlate delle vostre paure, delle vostre insicurezze, delle vostre manie con tocco ironico, come se descriveste una persona conosciuta che volete bonariamente prendere in giro. Dalla teoria alla pratica, Alessandra. Sì. Ad esempio, tu cosa faresti? Io su di me? Sì, puoi farlo anche su di me, così copio. Ma io non so, potrei fare un ritratto, ma non starei tanto a fare un ritratto sul fisico, perché ecco, venendo da questa la generazione di cui parlava Lorella prima, cioè, e anche la dottoressa Paola Leonardi, che è la generazione del femminismo, perché oggi, scusate, divago un attimo, ma ci si vergogna, appunto, no? Di questa parola, perché non sapete le volte che io sento dire, non che io sia femminista, non sì, perché sì, io certo, sono femminista, certo, ecco sì, già sì. Un po' a me mi girano, perché cioè, cosa, non è mica un reato essere femminista. Non venendo solo, da quella, anzi, bisognerebbe essere orgogliose, come dire, più grandi esperienze che abbiamo avuto. Venendo insomma, da quella generazione, non vorrei, se facessi un mio ritratto ironico, basarmi tanto sull'aspetto fisico, proprio perché, anzi, come dico nel libro, un passo in avanti si fa nel momento in cui ci si accetta anche, certo, con i propri difetti. Però ecco, potrei parlare di me come una che fa molte gaffe, o come una... Senti, però Umberto ci scrive, poi do la linea a Claudio. Umberto ci scrive: purtroppo, perché molte donne invidiano questi modelli e farebbero carte false per essere al loro posto, anche se sì, le criticano. Sì. Alberto. Ma direi che in questo senso la riflessione di Paola Leonardi può essere molto utile, cioè proprio nel gruppo allargato delle ragazze prima e delle donne poi, colpisce come invece di individuarsi in un codice, con un registro che ci fa bene, spesso le donne si individuano secondo l'occhio e lo sguardo dell'altro, e a quel punto fanno autogol o si tirano un boomerang addosso. Voglio dare un attimo la parola a Claudio, perché ci stava aspettando, entra in questo questa sorta di ginecea, no, ginecea non posso perché c'è Alberto, ma insomma vedo che stiamo prendendo un po'. Claudio, buongiorno. Salve. Mi scusi, ma prima dei mercati volevo salutarla. Ci racconti e poi vediamo se possiamo darle una mano. Sì. Allora, io ho una bambina di 9 anni, no? Ed è molto, molto timida, no? Per aiutarla in avere un po' più di autostima, io cerco sempre di dirgli: tu nella vita puoi fare tutto quello che vuoi, no? Però magari c'è anche qualcos'altro che posso dirgli, magari con un suggerimento da voi. Allora, suggerimenti ce ne sono tanti, inizia Alberto, rapido ma proprio incisivo. Ma direi che, visto che è un papà che parla della figlia di 9 anni, per me lo sguardo del padre posato con amorevole tenerezza e totale comprensione sul volto della figlia è il miglior carburante per la sua autostima. Vedo che tutte le mie ospiti annuiscono e vede, no, Paola. È fondamentale lo sguardo del padre. Certo, il rapporto con la madre è stato, come dire, quello che è stata la riscoperta degli anni 70, no? Il rapporto madre-figlia. Quindi su questo non si discute quanto sia importante, questo si dovrebbe parlare. Ne facciamo poi una puntata. Ecco, appunto. Però è importante quando, come diceva Alberto, che lo sguardo del padre può anche supplire o comunque essere parallelo o complementare allo sguardo della madre. Mamma. Nel senso che quindi... Perché fondamentale per l'autostima è l'accettazione, no? L'accettazione, la possibilità di apprezzarsi e di sentirsi amati. Ecco, quindi questa è la cosa fondamentale dell'autostima. Avere qualcuno, quindi avere qualcuno che ti apprezza, eccetera. Ma che ti insegna che dopo, se non ce l'hai, se non te lo dà qualcun altro, te lo dai da solo. Tu. Ed è quello che cercheremo di fare oggi insieme a voi e alle nostre ospiti e ad Alberto Pellaio. E adesso, prima di continuare il tema del giorno, vi ricordo che oggi parliamo della nostra autostima. Apriamo una parentesi per una notizia che arriva dal mondo della ricerca. Un vaccino per l'AIDS è stato sperimentato in Thailandia e risulta essere efficace in un terzo dei casi. In linea con noi il professor Adriano Lazzarin, che è ordinario di malattie infettive e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del San Raffaele di Milano. Professor Lazzarin, buongiorno. Buongiorno, Nicolè. Professor Lazzarin, la notizia di un possibile vaccino per l'AIDS accende da sempre tante aspettative. Io vorrei però che lei ci aiutasse a capire la portata di questa sperimentazione in termini scientifici e soprattutto ci faccia capire che cosa, quali sviluppi futuri porterà. Certo, innanzitutto bisogna sottolineare che è una notizia buona. Erano stati fatti dei passi indietro per il vaccino preventivo nei confronti della trasmissione dell'infezione d'HIV per gli insuccessi che si erano ottenuti nelle sperimentazioni precedenti. Un distinguo va fatto: il vaccino contro l'AIDS ha numerosi candidati, ma è diventato prevalentemente un vaccino terapeutico, cioè che aiuta le terapie che funzionano a controllare l'infezione da virus HIV una volta che si è contratto. Quindi un vaccino, mi scusi professore, non per evitare di infettarsi, ma un vaccino che viene somministrato alle persone quando sono già in terapia. Questo è quello che si intende oggi nella comunità scientifica per vaccino contro l'AIDS. Questo preventivo invece previene l'infezione ed è una grande notizia quella di poter contare su un vaccino che possa prevenire l'infezione prima, appunto, che il soggetto l'abbia contratto e si debba avvalere dei farmaci e dei vaccini terapeutici. È un po', non è entusiasmante il rate di la capacità di controllare la trasmissione, che è intorno a un terzo, il 31%, e questo forse è l'elemento che limita l'entusiasmo verso questa notizia, però prima di tutto non è poco e in secondo luogo bisogna considerare che ha aperto un po' una strada alla logica con la quale anche i vaccini preventivi devono essere prodotti, che è quello della combinazione di più candidati che vadano ad interrompere la trasmissione dell'infezione. Cioè non basta un vaccino monovalente, bisogna prevedere un vaccino che blocchi più meccanismi di ingresso del virus nel corpo umano, perché il virus si avvale di numerosi percorsi per superare il singolo blocco che incontra nel processo naturale di infezione. Quindi una strategia che è orientata su più fronti, è così? Questa mi sembra la cosa più importante ed è la strada sulla quale si sta andando, cioè che il vaccino anche preventivo deve essere composto da più molecole che blocchino lo più step del percorso che porta a contrarre l'infezione. È chiaro. Grazie professore, la saluto, le auguro buon lavoro. A lei e a tutti gli ascoltatori. E riprendiamo il tema di oggi, molte le telefonate all'824-0024, insomma abbiamo voglia di confrontarci. Voglio leggervi tra i tanti un messaggio perché secondo me sottolinea tanti aspetti. Sono nemica di me stessa, mi sento sbagliata e questo mi provoca una forte ansia. Razionalmente so di essere una persona con tante qualità, oltre che con i miei limiti, ma non riesco a sentirmi emotivamente sicura di me. Anzi, c'è un rimedio per stare meglio? Lo chiedo alle mie ospite. Dottoressa Leonardi, c'è un rimedio? L'abbiamo un po' già, una strada la stiamo facendo, l'abbiamo così iniziata noi oggi. Forse c'è un rimedio nel parlarne con altre donne, con altre persone, stare insieme. Il gruppo è stare insieme e confrontarci e lavorare insieme, anche giocare, come di fare dell'ironia, appunto. Ma è importante, fondamentalmente, è importante esprimere il nostro sentire, cioè riuscire a dire ciò che in genere nelle nostre società non si riesce a dire, perché sennò ti senti, tra virgolette, giudicata. Allora, riuscire ad esprimersi, perché se non ti esprimi, ti reprimi e quindi dopo ti deprimi, insomma, e quindi ci arriva la depressione delle donne, che è un altro tema. Tema caldo. Alessandra, ci vuoi aiutare? Il tuo libro proprio è una guida. Sì, il libro è una guida. Perché trovi tanti spunti per tirare fuori delle cose che, come dice la dottoressa Leonardi, non hai il coraggio di fare. Magari non pensi che sia proprio quella, capisci, che ti mette in crisi. Certo. Ci aiuti tu con una battuta e anche un po' con... Beh, oddio, ecco, guarire l'autostima in due secondi non è facile, perché anche no, questo è un discorso da fare, cioè l'autostima, diciamo, anche è un percorso, le regole, eh? No? Queste che si chiamano regole dell'autostima, noi ne abbiamo trovate 13, ma insomma... Però l'autostima è anche un percorso lungo. Ma certo, per tutta la vita dura. Esatto. Io faccio infatti degli stage, dei laboratori, dei seminari per lavorare su queste cose, proprio perché è importante confrontarsi con gli altri, come dicevi tu prima, noi ci abbiamo col gruppo... Scuola, anche, no? La scuola, esatto, di sociopsicologia delle donne, che aiuta a trasmettere il sapere delle donne, infatti, che hanno prodotto, e quindi a trovare anche una solidarietà femminile, esatto, e la valorizzazione del femminile. Scusa, certo, se ho interrotto. No, ma... Assolutamente. Poi, detto in pillole, vabbè, io lavoro molto, come dicevo prima, sull'approccio umoristico, quindi questo sicuramente è un sistema, quello di vedere le cose con una capacità di distacco e di ironia che ci consenta di non sprofondare sempre nell'aspetto drammatico delle cose. Sì. Questa è una tecnica, anche questa, che si può acquisire attraverso il contatto, ovviamente, con persone che te lo possono insegnare, dal corso di teatro al corso sull'autostima, al corso e il confronto con gli altri, come dicevamo prima, e un approccio proprio di riflessione sulla realtà che sia sempre meno, come dire, egocentrico, narcisistico, perché diciamo che, come sottolineo spesse volte nel libro, l'autostima non si significa un'ipertrofica valorizzazione di sé, un ego enorme, viceversa, no, è la valutazione abbastanza equilibrata dei nostri limiti e dei nostri pregi. Andiamo nella provincia di Cremona. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Roberto. Mi dico. Mi racconti lei, vuol parlare di lei o di una donna accanto a lei? Sì, non lo sento bene, però mi sembra di aver capito. Allora Roberto, venga alla domanda. Praticamente io vorrei sapere come comportarmi con mia figlia che ha poca autostima di se stesso. Diciamo, perché perché lei dice ha poca autostima? Di che cosa si lamenta sua figlia? Quali sono i punti, le sue criticità? Che cosa le dice? È importante capire anche dall'occhio del padre quali possono essere i problemi della figlia. Roberto. Sì, oppure se è un problema del padre. Esatto, vediamo. Io volevo arrivare lì. Roberto. Sì. Perché sua figlia ha poca autostima? Che cosa allora, le dice? Primo punto, il problema è anche mio. Ecco. Secondo, ritornando a quello che avete detto, se si guarda allo specchio, lei prima di tutto guarda sempre per far contento gli altri. Diciamo che sta facendo l'università, in 4 anni ha già fatto l'università come se avesse, cioè praticamente ha già dato gli esami per 2 lauree, non per 1. Sì. poi è sempre insicura. Nonostante i successi, Alberto, qua come padre devi entrare tu. Ma direi intanto è un buon esempio di come saper fare non necessariamente significhi saper essere, e anzi in moltissimi casi chi fa imprese straordinarie. Provate, purtroppo è stato anche caricaturizzato nei film il secchione, è chiaramente una persona tutta gettata nel versante del successo scolastico, ma per compensare un evidentissimo insuccesso invece nel condurre la propria vita. Per cui direi proprio che forse questa figlia va valorizzata nell'esperienza del fallimento, cioè ha probabilmente preso una direzione dove l'unica cosa che la fa sentire tranquilla è il riuscire bene in alcune prestazioni, e invece va proprio accompagnata anche incontro al fatto che, pur sbagliando, pur andando incontro alla fatica dell'incontro con l'altro, per esempio, uscire dai libri e entrare nella vita può essere molto faticoso, molto doloroso anche, ma può offrire straordinarie occasioni per capire non cosa so fare, ma cosa so essere. Eccoci, allora, noi ci rimettiamo tutti le cuffie, Filippa Oreggi poi vi sgrida se siete indisciplinate. Quindi Alberto ha suggerito una ragazza fragile eppure agli occhi degli altri, non del padre che ha colto la sua fragilità, perfetta dagli esami, e quindi Alberto dice che deve misurarsi nello sperimentare anche il fallimento, perché ci si accetta anche quando riusciamo a dire vabbè dai, qua sono una bella pasticciona, no, sono timida, faccio un po' fatica. Visto che vuoi sempre gli esempi concreti, nel libro io faccio un esempio mio di come sempre prima dello spettacolo a me prende il panico e di come io mi faccio una specie di autolavaggio del cervello dicendo l'eventuale fallimento di questa serata non sarà il fallimento. Per questo trovo molto giusto quello che ha detto Alberto Pellai prima, cioè non devo universalizzare il fallimento di un esame, di una performance, di un rapporto sentimentale andato male come un fallimento personale, ma devo cercare di vederlo semmai come una prova, come uno stimolo, un errore, dagli errori si impara. Certo, quindi ne facessimo solo io, uno. Ecco, questo avanti. Si può dire a questa ragazza così perfetta e così insicura, che non è la perfezione che ci protegge, perché la vita è continuamente un errore continuo, ma dagli errori si può prendere stimolo per imparare delle cose nuove, e soprattutto quell'errore non è il nostro fallimento come persone. Noi ci cimentiamo continuamente, alterniamo successi ad insuccessi nel corso di tutta la nostra vita. Sì, Lorella. Su questo volevo aggiungere, tornando un po' ai modelli televisivi, che è giustissimo quanto stiamo consigliando a questa ragazza. Devo anche dire che, avendolo vissuto come donna, esempio concreto, io per esempio ho sentito molto nei miei anni da ragazza il bisogno di corrispondere a quello che io sentivo era quello che secondo me era quello che desiderava da me mio padre. Però su questo mi soffermerei per dire che spesso è la nostra idea di quello che noi riteniamo che il padre voglia, no? Sì, o la madre. Così come per esempio nel mio documentario Il corpo delle donne, io dico una cosa che secondo me è interessante discutere, che ci guardiamo l'un l'altra, noi donne, con il presunto sguardo maschile, e quello che noi presumiamo, perché poi scopriamo, io scopro dalle mail che ci arrivano, che spesso non è vero che gli uomini guardano, anche se ormai tra noi donne, io ho notato per esempio ultimamente che tra donne ci guardiamo per esempio il seno, ci guardiamo il sedere, ci guardiamo le rughe, le labbra, se le sarà rifatte o no. Certo, io mi a volte vorrei tornare a quali erano veramente i miei desideri prima che ci colonizzassero l'immaginario. Io adesso per esempio vi sto guardando, vi guardo come vi guarda Lorella Zanardo veramente, o ho introiettato lo sguardo che io credo Alberto abbia su di voi? Perché questo è un massacro che ci hanno fatto, di cui Alberto, è bello essere consapevoli. Tu chiudi gli occhi così noi stiamo più serene. Ma forse bisognerebbe pensare che questa operazione televisiva è un'operazione di marketing, cioè loro hanno voluto, ci fanno vedere questi corpi così finti o così pseudo perfetti perché hanno bisogno di vendere dei prodotti, perché no? Quindi forse dovremmo liberarci da questo, come dici tu, non è tanto che gli uomini vogliono dalle donne che non vedere il filo di cellulite, che peraltro è una lotta impossibile. Dichiariamolo. Secondo me, sinceramente, non è, come dici tu, non è così. Certo. È un'operazione di marketing che allora, ha fatto sulle nostre pelli, sulle nostre vite. Allora, io ho Giuseppe che mi aspetta da Brescia, quindi che ci aspetta? Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Si accomodi, Giuseppe. Parliamo allora, un po'. Parliamo un po'. Io contiamocela. Da piccolo ho vissuto, i miei genitori avevano una trattoria, un ristorante, e ho sempre stato molto a contatto con tante persone. E da piccolo mi dicevano tutti: oh, che bel bambino, che bel bambino. Io sono cresciuto con questa convinzione, quindi ho sempre avuto una forte autostima data dal fatto che gli altri probabilmente dicevano così. Sono cresciuto, diventato un buon ragazzo, un bel ragazzo, un buon padre, e quello che cerco di fare io con le mie figlie tutti i giorni, quando c'è l'occasione ovviamente, è gratificarle quando fanno qualcosa di positivo, abbracciarle, avere quello sguardo che si diceva prima, e farle sentire, non dico uniche, non montargli la testa assolutamente, però insomma avere quel contatto che secondo me ci vuole quando c'è la necessità, insomma dargli degli incoraggiamenti quando li merita. Bravo Giuseppe, mi sembra una filosofia abbastanza pellaiesca, direi. Io invece, Giuseppe, pensi che io sono cresciuto in una famiglia dove ho una sorella, e mia sorella è da piccola e anche adesso era molto bella, i lineamenti regolari, proprio una bella bambina, si fermavano e poi guardavano l'altro rospo che ero io vicino e dicevano: tua sorella è proprio bella, bellissima, e poi si interrompevano e dicevano: tu sei simpatica, tu sei molto simpatica. Bene, io devo dire che per una strana alchimia, poi ho avuto mamme, no? Una mamma e una nonna molto, molto attente, vivaci, insomma io questo l'ho preso con un complimento magnifico e non ho mai avuto dei complessi, che pure dovrei avere, il naso storto, insomma tutte le donne, no, si guardano, e io con questa rassicurazione, cioè tua sorella è bella, ma tu dai, sei simpatica, sei un tipo, io ho coltivato questa dimensione, quindi senza saperlo io ho avuto degli psicoterapeuti intorno. Alberto, che dici? Ma direi che chissà tua sorella questa, che voglia di diventare simpatica che aveva. Tua sorella è stronzissima. No, mia sorella è molto, è veramente una bellissima donna ed è diventata anche simpatica. Sì. Probabilmente ha intuito la chiave del successo. Magari ho preso anch'io un po' di fascino, chissà mai. Certo. Damiano, ma questo per dire che tante volte siamo preoccupati, no, di dire ai bambini: sei bello, sei bravo. Poi la prima volta che incontrano qualcuno che non la pensa così, questi vanno in crisi. Quindi, no? Anche sottolineare, certo. Posso solo riprendere una cosa per me da uomo e da padre bellissima che ha detto il nostro papà al telefono, ed è che quando penso al fatto che sono un motore per l'autostima delle mie figlie, mi viene anche da abbracciarle e coccolarle. Ecco, direi che il contatto fisico, che è la cosa più gratuita che possiamo dare a un bambino che sta crescendo, è probabilmente una benzina che gli dà il senso del suo valore. Secondo me molto di più che ripetere continuamente come sei. Allora, bello, noi abbiamo un minutino e noi torneremo, anzi scriveteci anche voi da casa se avete piacere di fare questo gruppo radiofonico per l'autostima. Inviteremo naturalmente tutti voi ospiti, insomma cerchiamo di darci da fare. Paola Leonardi parlava, avete raccolto 13 regole per l'autostima, no? Per costruire. Noi abbiamo 20 secondi, per cui vediamo tre e poi ci diamo, speriamo, a grande richiesta del nostro pubblico, che potete chiamare, scrivere, insomma fateci aumentate la nostra autostima gratificandoci anche voi, fate il vostro. Tre regole e poi ci salutiamo. Sì, volevo dire telegraficamente anche a questo padre che benissimo a coccolarlo, tutte queste cose, ma proprio accogliere e accettarla per come è, senza dover sostenere a tutti i costi. Ma le regole d'oro: frequentare persone che ci fanno bene, scegliere luoghi e attività che ci danno benessere e un buon nutrimento fisico, mentale e spirituale. Mai dare più di quanto non possiamo fare. Brava. E questo è un bel problema per le donne. Questo ci fermiamo perché io devo dare la linea. Ricordo autostima, mi lo trovate in edicola. No, in libreria. In libreria, scusate, non volevo dire non in libreria, ma non in edicola. In libreria. Un abbraccio collettivo a chi è venuto, intervenuto, ci ha ascoltato. Quindi potenziate la vostra autostima, anche la nostra. invitandoci nuovamente a parlare di questo problema. Grazie. Grazie a tutti, grazie, a domani. Grazie. Arrivederci.